Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Arrivando ragazzi, Braccio di Ferro vi salverà, almeno spero. Ah, è il momento di raccogliere le energie. Fortuna che ho con me una scatola di spinaci. Se siete come lui, se volete diventarlo, ma anche se siete l'antibraccio di ferro per antonomasia, oggi, care amiche, cari amici, vi chiedo di sfoderare i muscoli, perché è di loro che parliamo. Oggi ci occupiamo di muscoli scolpiti, di muscoli appena accennati, di muscoli che lavorano sodo, di muscoli pigri. Attivatevi subito, chiamate il nostro numero verde 800 24 0024, obiettivo guadagnare tono, elasticità e forza. Allora, come sempre, è essenziale la vostra partecipazione, quindi vi invito a provare a raccontarvi al telefono, ad esempio, quali sono i muscoli che usate di più, quelli che vi danno più soddisfazione, che sentite più forti, scattanti. I muscoli delle braccia, quelli delle gambe, gli addominali, ma chiamatemi anche per dirmi quali sono i muscoli che vi danno più filo da torcere, quelli che ad esempio non rispondono a nessun lavoro. E ultima richiesta, quali sono i muscoli che sono svenuti, inflacciditi? Pensateci bene, l'interno coscia ad esempio. Vogliamo aggiungere anche l'attività fisica che praticate? Chiamateci allora per controllare con i nostri esperti se vi state allenando in modo armonico ed equilibrato e se state soprattutto utilizzando i muscoli giusti. Una puntatona, 800 24 00 24, mancate solo voi. 29 giugno, adesso devo rimettermi in forma. Stare seduto tutto il giorno mi ha fatto diventare flaccido. I muscoli sono spariti. Da oggi in poi 50 flessioni tutte le mattine. 50 flessioni. Niente più cibo cattivo, lontano dai nemici del mio corpo. D'ora in poi la mia vita sarà riorganizzata. Tutti i muscoli dovranno essere tesi. E buongiorno al dottor Stefano Respizzi, responsabile del Dipartimento di Riabilitazione e Recupero Funzionale di Humanitas. Bentornato. Grazie, buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Dottore, si avvicina l'estate, la prova costume ci chiederà un corpo tonico e scattante, c'è ancora tempo per allenarci e risvegliare i muscoli che si sono un po' inflacciditi e rilassati oppure nascosti, diciamo così, sotto una leggera copertina di ciccia, ma ahimè non siamo tutti uguali, per fortuna, Esistono delle caratteristiche innate che fanno la differenza, meglio conoscerle. Assolutamente, assolutamente d'accordo. Tutti noi siamo fatti, sostanzialmente ereditiamo dai nostri genitori un certo tipo di fisico, evidentemente. Ci sono persone che hanno la fortuna di avere un bellissimo fisico, persone che magari non sono così fortunate, ma comunque sia tutti noi abbiamo i muscoli. Allora alcune di persone fortunate, quelle che citavo prima, hanno dei bei muscoli, si vede quelli che sembrano i bronzi di Riace, per fare un esempio diciamo classico, e invece ci sono persone che oltre magari al piccolo strato di ciccetta che c'è sopra, hanno anche dei muscoli che non sono così tanto efficaci e che quindi non sembrano, o perlomeno dal punto di vista esteriore, guardando una persona, non sembrano così efficaci. Poi per la verità tutti i nostri muscoli, di tutti gli esseri umani, fanno sempre il loro dovere. Se un muscolo serve per estendere una gamba, in tutti gli esseri umani quel muscolo estende la gamba. C'è chi avrà quadricipite più bello, quadricipite meno bello, però noi dobbiamo partire dal concetto che un muscolo è sempre allenabile. Qualunque muscolo del nostro corpo è sempre allenabile e a qualunque età. Questo ci piace, non è mai troppo tardi, dottor Respizzi. Tant'è che noi ad esempio in riabilitazione ci occupiamo delle nonnine di 90 anni e si lavora comunque sui muscoli. Quindi il muscolo è uno strumento fantastico, è un motore che serve a muovere le leve ossee e è un motore talmente fantastico che non va mai fuori giri, tendenzialmente poche volte, raramente si rompe e soprattutto è sempre riparabile ed è sempre allenabile, sempre durante la nostra vita. Dottor Respizzi, noi a Essere Benessere puntiamo, lo dice il titolo, sul benessere, quindi parlando di muscoli cercheremo di capire come avere muscoli trofici, forti, elastici e resistenti. Mi sembra che queste siano le caratteristiche che, per una muscolatura perfetta, soprattutto sana. Ma dottor Respizzi, cosa dice? Proviamo a iniziare un po' a valutarla, fare un test di auto-osservazione? Dunque, è chiaro che essendo un motore e quindi essendo una struttura che esprime forza e potenza, io posso in un laboratorio valutarlo con degli strumenti, dei dinamometri, ma naturalmente questo è riservato a dei laboratori di ricerca o a una valutazione molto più specifica. Invece noi possiamo provare a fare un test molto semplice a casa propria, stando seduti su una sedia normale, vicino a un mobile o una libreria, infilare il piede sotto questo mobile, quindi sono seduto, ginocchio piegato a 90 gradi e il piede lo metto lì sotto a fare leva. E comincio a spingere cercando di sollevare la libreria o il mobile che c'ho davanti. Naturalmente il mobile non si sposta di un millimetro, ma il mio muscolo quadricipite, cioè la coscia, la parte anteriore della coscia, si irrigidisce, cioè diventa contratto, come si dice in gergo, e io posso, toccandomi con la mano la coscia, percepire, anche se c'è sopra un piccolo strato di adipe, percepire una modifica della forma del muscolo. E è un test molto facile, molto semplice, e mi dice di quanto questo muscolo cresce di dimensione durante la contrazione, e soprattutto mette in evidenza la forma del muscolo, cioè la parte caratteristica del muscolo quadricipite, che è quello appunto di avere quattro capi. Quadricipite si dice così perché ha quattro capi. In particolare io posso sentire vicino al ginocchio, in fianco alla rotula, nella parte interna, un cicciottino che è il muscolo vasto mediale. Ho detto cicciottino che non è proprio scientifico. No, ma mi piace questo l'idea. Cicciottino. Ecco, sta provando Nico questa roba. Anch'io sto provando. C'è cicciottino e... no? C'è questo cicciottino delizioso, direi. Ecco, quello è il vasto mediale. Ecco. È un indicatore del benessere del muscolo quadricipite. Se quel muscoletto lì, quel cicciottino lì cosiddetto, è bello tonico, è bello duro, vuol dire che il muscolo quadricipite è allenato. Quindi questo è un indice molto semplice, molto facile da e poi provare. Soprattutto è molto semplice l'esercizio che lei ci suggerisce. Io mi faccio valutare, non mi autovaluto, il cicciottino l'ho trovato e mi sembra abbastanza tonico, ma mi farò autovalutare da Tite Togni. Ne approfitto, qua in studio con me, insegnante di yoga certificata Iyengar. Cara a tutti. Ciao Tite. Allora io intanto poi rifarò l'esercizio, poi tu mi controlli, ma non devi parlare, lasciamo così. Consapevolezza di ognuno. Tite, i muscoli delle gambe, come quelli delle braccia, insieme agli addominali, sono proprio i muscoli su cui puntiamo e che più facilmente alleniamo, anche perché sono quelli che osserviamo quando ci mettiamo davanti allo specchio. Ma c'è tutto il resto, c'è l'altro, il retro. Il retro, che non va mai allo specchio. Quindi i muscoli della schiena, i muscoli posteriori delle gambe, ce ne dimentichiamo. Ci sono anche loro, anzi, forse sono proprio loro che fanno la differenza. Ecco, e fanno fare bella figura ai muscoli che ci portiamo davanti. E lo yoga è un'antica disciplina che insegna alla consapevolezza e a ricercare l'armonia. Quindi l'armonia tra la parte alta e la parte bassa anche del corpo, quindi la parte alta e la parte bassa del busto, e l'armonia anche tra il davanti e il dietro. E il davanti nello yoga si dice è ciò che esprime l'ego. Sì, e dietro? Ma l'ego va sempre tenuto un po' a bada. Senza mai dimenticare il retro. Se ci pensiamo, la parte dietro, cioè la schiena, è quella cosa di cui non ci accorgiamo mai finché lei non deve urlare o lamentarsi per farsi sentire, per chiamare la nostra attenzione. E quindi la pratica dello yoga è proprio anche mira sempre a riportare l'equilibrio tra lo sviluppo della parte anteriore e un'armonia nel lavoro anche della parte posteriore di tutti i muscoli della colonna vertebrale. C'è anche da dire che abbiamo degli strumenti stupendi che sono gli arti superiori e inferiori, che sono i nostri strumenti per agire sulla colonna vertebrale. Quindi è tutta una grande macchina muscolare che deve lavorare tutta insieme, muscoli antagonisti ed agonisti. Vogliamo anche con una lettura e con la tua esperienza di asana suggerire ai nostri ascoltatori un modo per prendere consapevolezza della loro muscolatura e non solo di capire, lo abbiamo fatto con il dottor Respizzi per capire se c'era tono, certo, ma toccando il muscolo del quadricipite. Invece per prendere consapevolezza, e chi pratica yoga lo sa bene, soprattutto quando inizia, che poi mi scrive il giorno dopo, mi dice: ma io oggi sento, sento dei dolorini diffusi in tutto il corpo, soprattutto in punti che non pensavo di avere, cioè che sono muscoli. Stati risvegliati. Sono stati dormivano, risvegliati, quindi... certo. E quindi io inizio sempre con un'azione che porta la consapevolezza sulla muscolatura posteriore, quella della schiena, con la posizione dell'eroe a faccia in giù. Ossia, seduti sui talloni, in ginocchio, seduti sui talloni, allungarsi il busto in avanti, appoggiare la fronte a terra, allungare le braccia oltre la testa, estendere le braccia, appoggiare i palmi per terra e fare 5 respiri in questa posizione, che è la vera e propria posizione Adho Mukha Virasana, posizione dell'eroe a faccia in giù. A questo punto, una volta presa consapevolezza della lunghezza della schiena tramite l'estensione delle braccia e della spinta dei palmi per terra, provare all'inspiro, quando si decide, a riportarsi con il busto eretto, con le braccia così lunghe ed estese oltre la testa, e quindi in blocco riportare su busto e braccia in posizione verticale. Se questo ci sembra, ci viene facile, naturale, quasi armonico, significa che i muscoli abbiamo azionato tutta la schiena, catena dei muscoli. Esatto, sono stati. Se invece facciamo molta fatica, ecco, pensiamo che quella fatica la stanno facendo anche i nostri muscoli che non sono opportunamente stimolati e allenati. Naturalmente non scrivetemelo, perché vi anticipo le posizioni che Tite Togni ci suggerisce in trasmissione. Le mettiamo anche sulla nostra pagina di Facebook, quindi dopo la trasmissione le troverete, proprio giusto solamente il tempo di dare a Laura Vanossi di filmare Tite, e quindi troverete tutte le posizioni. Troverete la posizione dell'eroe a faccia in giù, posizione che ci permette di capire se i nostri muscoli, quelli che stanno alle spalle, schiena, alle spalle, ecco, proprio, sono opportunamente sviluppati. Una condizione essenziale anche per far lavorare bene gli addominali, di cui parleremo, ma soprattutto una condizione essenziale, dottor Respizzi, mi aiuti lei a evitare di farsi male. Assolutamente. A che cosa serve? Dobbiamo rispondere a questa domanda. A cosa serve la forza muscolare? L'Associazione di Medicina dello Sport americana ha definito come funzione principale della forza muscolare il benessere fisico. Quindi addirittura aveva evidentemente visto il suo programma, aveva citato direttamente il programma. Quindi il muscolo tonico, il muscolo buono, ci consente una miglior qualità di vita. Quindi noi abbiamo bisogno del muscolo tonico, non tanto per fare l'esibizionismo, dimostrare questi grandi muscoli in palestra piuttosto che in spiaggia, piuttosto che no, ma per avere un'ottima qualità di vita. Perché il muscolo, se è reattivo, se è capace di esprimere forza in tempi molto rapidi, ci aiuta ad esempio a non cadere se si inciampa, ci aiuta a consumare meno energia, perché un muscolo bello tonico con poco sforzo riesce a fare dei gesti che invece per noi potrebbero essere molto più impegnativi. Quindi è uno strumento, questo motore, indispensabile per il benessere generale dell'organismo. Quindi agisce un po' su tutto. Abbiamo in linea Andrea da Milano, Fulvio dalla provincia di Ravenna, Edoardo da Lecco. 800 24 00 24, questo è il nostro numero verde. Potete come sempre seguirci su Facebook e su Twitter, Fuori Muscoli, di oggi, se voi volete. Ma prima di dare la parola ad Andrea da Milano, intanto la saluto, io volevo chiedere ai nostri ascoltatori, se siete runner o ciclisti amatoriali, so che tra voi ce ne sono molti, scoprite con noi i muscoli dimenticati e poco allenati, perché accuratamente sollecitati possono migliorare le prestazioni e garantirvi anche più sicurezza. Quindi per gli sportivi 800 24 00 24, ma oggi cercheremo di fare di più, cioè di allenare, anche di restituire tono a quella muscolatura che si è un po' inflaccidita, e che per cui Tite Togni ha pensato degli esercizi specifici che possiamo fare nei tempi cosiddetti morti. Quindi se siete sedentari, pigri, se il vostro muscolo si è un po' addormentato, restate con noi, individuatelo e chiamateci, perché Tite Togni ha degli esercizi per voi. Intanto Andrea, buongiorno, benvenuto. Sì, buongiorno. Buongiorno a tutti. Ascolta, io avrei bisogno di qualche consiglio, nel senso che io faccio l'agente di commercio e quindi faccio tantissimi chilometri con la macchina suddivisi dal martedì al giovedì, no? Sono circa 1200, quindi praticamente passo la mia vita in macchina. E quindi praticamente adesso non ho più neanche un muscolo tonico. E poi diciamo che fumo anche una decina di sigarette al giorno, mi piace mangiare, però sono magro, nel senso che sono 1,80 m per un 71-72 kg a vuoto. Ecco, quindi perfetto Andrea, però, lei è il mio ascoltatore ideale. Ecco, è appunto. Bravo, perché se tutti si allenano bene, hanno il muscolo scolpito, mangiano in modo perfetto, che ci stiamo a fare? Dottor Respizzi, ecco. Ci piace Andrea? Assolutamente sì. Ci riconosciamo un po'. Assolutamente sì. Purtroppo Andrea è il tipico esempio di vita moderna, nel senso che noi abbiamo sotto sedere sempre queste macchine che ci portano in giro e questo è il nostro destino. Se poi uno fa l'agente di commercio, non ha evidentemente alternative. E proprio per questo motivo direi che deve cercare in tutti i modi Andrea di dare una svolta alla sua vita. Il che significa che non è che fa agente di commercio in bicicletta, che sarebbe l'ideale evidentemente, ma provare a sfruttare ogni momento per rinforzare la muscolatura. Ad esempio, quando va a trovare un suo cliente, se questo cliente è al terzo piano, l'ascensore non esiste, in salita, sia in discesa. Cercare di magari parcheggiare la macchina lontano dai clienti, perché perlomeno è costretto a fare un pochino più di chilometri. La solita obiezione che viene fatta dai pazienti in questo caso è ma io sono sempre di premura, sono sempre in ritardo. È chiaro, però se ci facciamo prendere da questo vortice negativo non facciamo più nulla, non usciamo più da nessuna parte. E quindi io sconsiglierei il fumo, perché anche se sono solo 10 sigarette comunque il fumo va abolito, perché il fumo ha anche un effetto negativo sullo sviluppo della forza muscolare. È incredibile quante cose negative fa il fumo. Quindi abolizione del fumo e una buona abitudine di arrivare 5 minuti prima dal cliente e farsi l'ultimo pezzo a piedi, se ha le scale, almeno di farsi le scale, in qualche modo. Questo è il minimo. Questo poi è naturalmente minimo. Provare a cambiare proprio modalità e dire, vabbè, io mercoledì mattina lo dedico al mio fisico, al mio corpo. Questo secondo me dovrebbe essere una scelta di vita. Tutti noi abbiamo 24 ore, non è che possiamo inventarcene di più, però ci sono delle priorità. 24 ore nell'agenda del mercoledì mattina del nostro ascoltatore, ad esempio, potrebbe esserci il mio corpo, ecco. Che è un cliente anche lui, È un cliente anche lui, un cliente esigente e soprattutto preziosissimo. Tite, prezioso come un tempio. Iyengar dice il corpo è il tempio dello spirito. Tite, prima dei mercati, per gli ascoltatori che si riconoscono in Andrea, siamo in tanti, quindi sedentari, siamo costretti a passare tante ore sedute, Andrea è in macchina, ma molti di noi stanno seduti ad esempio alla scrivania. Anche il modo del suggerimento del dottor Respizzi che diceva cammini, arrivi, c'è anche un modo di camminare che ci tonifica ad esempio più di un altro, tenendo un passo di un determinato tipo, Tite? Sì, facendo per esempio i balzi in avanti, piegando le gambe a 90 gradi, quindi adottando di fatto la posizione dell'eroe numero uno. Però a parte questo... Sì, poi il cliente di Andrea dice, ma chi mi sta arrivando? Ma chi è questa che arriva balzando? Però l'indicazione ultima secondo me può essere un gancio molto utile, cioè prendersi per esempio il mercoledì mattina per, non dico tanto, ma 5 minuti di yoga dinamico. Per esempio, la base del saluto al sole. Passare dal cane a testa giù al cane a testa su. Partendo da 4 zampe, allungare, estendere gli arti, braccia e gambe e immaginare di avere il bacino come il vertice di un triangolo che va verso il soffitto. Quindi spingendo i palmi, spingendo i piedi per terra, estendere tutta la colonna vertebrale in questa posizione che è di fatto già una posizione capovolta, quindi con che allena e allunga la muscolatura posteriore e rinforza la muscolatura anteriore. Allora il dottor Respizzi ha così lanciato l'idea del mercoledì. Noi teniamo questa idea del mercoledì, i 5 minuti del mercoledì per tonificare la muscolatura e allungarla, tra cane a testa in giù e cane a testa in su, perché il cane a testa giù è con il bacino verso il soffitto, e poi all'inspiro dopo tre respiri, passare al cane a testa su, quindi abbassare il bacino, portarsi nella posizione della panca che è assolutamente verticale e il corpo è sospeso tra mani e piedi parallelo al suolo, e poi invece spingendo ancora di più le mani per terra portare il torace verso il soffitto e guardare su. Questo è il cane a testa su. Tutto basta guardare questo, un cane basta che lo fa che sempre. Voi facciate un giro sulla pagina di Facebook e da oggi i 5 minuti del mercoledì da un'idea del dottor Respizzi con le indicazioni di Tito e Toni. Noi andiamo a sentire i mercati. 800 24 00 24, state con noi. Essere e benessere. Bicipite, trapezio, grande sai, piccolo rotondo, sterno, clairo, master, flessore, sensore, pronatore, grande sos, brachiale, mediale, deltoide, pettorale. Bicipite, trapezio, grandorsale, brachiale, mediale, deltoide, pettorale, quanti nomi di muscoli conoscete? Alcuni hanno nomi strani, ma ognuno ha una sua funzione. Volete mettervi alla prova? Anche questo in fondo è allenamento. 800 24 00 24, sciorinateci un elenco. Dottor Respizzi, lei li conosce tutti? Assolutamente no. Nel senso che sono evidentemente moltissimi i muscoli, e la maggior parte sì, giustamente, ma ci sono proprio degli atlanti che ci spiegano come ogni essere umano ha il suo giusto muscoletto al posto giusto per fare quel determinato movimento. E quindi l'importante è capire dal punto di vista di allenamento qual è il gesto generato da quel muscolo e agire esattamente su quel gesto per provare a migliorare la prestazione del muscolo stesso. Fulvia. Fulvia ci chiama dalla provincia di Ravenna ed Edoardo. Fulvia, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, la mia domanda, partiamo da 60 anni, 61 kg e mezzo di peso, longilinea. Una delle mie domande era, è vero che i muscoli delle persone longilinee, specialmente i muscoli lunghi tipo il quadricipite, sono più difficili da fare ingrossare, da tonificare? Questa è una. E seconda cosa, io ogni tanto vado in palestra, però se rimango una settimana e mezzo senza allenare le gambe, mi accorgo che il quadricipite cala, si perde, sparisce. Io devo farlo, non dove tanto sei? Perché mi piace, sì, non tanto perché mi piace, ma perché è un problema di cartilagini, quindi mi hanno detto rinforzare il quadricipite. E questo è da fare. Tite, per Fulvia e per tutte le persone che e per vogliono le persone che hanno bisogno tirare su il quadricipite. Tirare su proprio, per tenere perché il ginocchio sano. Tendenzialmente va giù. Tendenzialmente va giù e va a schiacciare il ginocchio. Allora, ci sono tutte le sante posizioni in piedi dello yoga. Io ne consiglio una che vedrete spiegata ed è il guerriero numero uno, che permette di potenziare proprio tantissimo i muscoli grossi delle gambe, cioè la coscia. Quindi volete la posizione. Volete cosce scolpite? Il cosce guerriero fa per voi. E anche i glutei. E anche il gluteo. Perché va tutto insieme. E iniziate tenendo la posizione tre respiri. Ricordatevi sempre che le posizioni asana significa stare seduti, vuol dire la posizione deve essere sempre stabile e comoda, vuol dire poter respirarci sopra in maniera tranquilla, senza affanno. Quindi provate tre, poi cinque e vedrete. Andiamo ad Edoardo che ci chiama da Lecco. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno, buongiorno. Il mio problema non sono né le gambe né tutto il resto, ma sono i pettorali. Ecco. Ormai sono un po' di diversi mesi, quasi un annetto, che frequento la palestra con una certa frequenza regolare, diciamo almeno quelle tre volte alla settimana. Però io ho tirato su le gambe bene, la schiena, le braccia, cose via, eccetera. Pettorali niente da fare, anche se sono forti, cioè perché i pesi li tiro su, però non fanno volume. Dottor Respizzi, questi pettorali non danno soddisfazione. Ecco, questi, noi vogliamo lavorare su questi muscoli che, come dice Edoardo, non danno soddisfazione. Come mai? Allora, intanto bisogna distinguere due aspetti. Uno è quello del volume, cioè dell'aspetto esteriore, e l'altro quello dell'efficacia del muscolo. Se i muscoli del nostro ascoltatore sono forti, bingo, risultato è stato ottenuto dal punto di vista della salute. Dal punto di vista estetico, purtroppo non c'è niente da fare, alcuni di noi appunto hanno il fisico da bronzo di Riace e altri no, ma un po' da Topolino. Ecco, è impossibile modificare la forma, la nostra struttura in maniera così decisiva da avere una grande soddisfazione dal punto di vista estetico, se non utilizzando sostanze dopanti, ma sì, evidentemente noi non abbiamo nessuna intenzione di usare sostanze dopanti. Certo. Quindi queste mostruosità che si vedono quando si vedono le immagini di bodybuilders, eccetera, sono artificiali, non sono qualcosa di naturale. Se i genitori del nostro ascoltatore gli hanno trasmesso questo tipo di forma, di struttura fisica, è quella che lui ha ereditato. Quindi può fare qualcosa, può migliorarne un po' il tono, ma ci sono persone che quasi senza neanche far fatica hanno bellissimi muscoli perché i loro genitori gli hanno passato questa cosa, bisogna forse farsene anche un pochino una ragione. E per quanto riguarda il quadricipite, che è stato citato anche prima dall'altra ascoltatrice, sì, il quadricipite è un muscolo che tipicamente ha una funzione motrice, cioè ci serve proprio per spingere, per calciare, per correre. Ed è quindi un muscolo che se io non utilizzo per fare dei gesti così violenti, così forti, non serve, e quindi è il muscolo che più facilmente si riduce di dimensioni. Quindi se la signora ha un problema di cartilagine della rotula, come sembra di aver capito, deve dedicare molta attenzione al mantenimento della forza del quadricipite. Quindi lei è una di quelle persone che proprio deve dedicare più ore al suo quadricipite. Vede, lei si sta allargando, ci aveva detto 5 minuti, mezzo, 20 minuti al mercoledì mattina, non si sa. Adesso si allarga ore e ore, perché dottor Respizzi, la forza di allenarsi, i muscoli poi si lamentano, sta a noi a vedere poi se lo fanno di gamba buona o hanno ragione. Il dolore lo sappiamo, può manifestarsi durante l'esercizio, subito dopo, a distanza di un paio di giorni, ma il momento dell'insorgenza del dolore è molto indicativo e aiuta a capire sia le cause, quindi a trovare le soluzioni. In linea con noi abbiamo il piacere di avere il dottor Rodolfo Tavana, responsabile sanitario di ACI Milan. Buongiorno. Sì, buongiorno Nicoletta e buongiorno agli ascoltatori e un saluto all'amico dottor Respizzi. Dottor Tavana, mi sono allenato e sono tutto rotto. È l'acido lattico, si dice così, ma è davvero lui il colpevole? No. No. L'acido lattico può incidere durante l'esercizio fisico, là dove l'esercizio sia ad elevata intensità. L'esempio è, guardate alla televisione una gara di 400 metri, di 400 metri ostacoli, e lì vedrete degli atleti che, alcuni degli atleti in competizione, negli ultimi appoggi, quindi nell'ultima fase della gara, sono un po' scoordinati. Questo è legato a un'elevata quantità di acido lattico a livello muscolare. L'acido lattico, già dopo un quarto d'ora l'abbiamo smaltito quasi del 50%, dopo un'ora non ce n'è più traccia, quindi non è lui l'artefice del dolore. Essere e benessere. Eccoci qua, muscoli dolenti, cerchiamo di capire la causa e soprattutto cerchiamo di capire cosa fare per eliminare il dolore. Dottor Tavana. Allora, noi individuiamo in 3 cause principali. Sì. La prima è, l'esempio classico può essere un atleta, un amatore che va in bicicletta regolarmente, si allena 4-5 volte alla settimana o con la mountain bike o con la bici da strada. Poi un giorno piove e decide di correre e allora dopo un quarto d'ora, 20 minuti, comincia ad avvertire dei dolori muscolari al quadricipite, quindi la parte anteriore della coscia. Questo è legato al non adattamento al gesto tecnico, quindi lui è in ottima condizione dal punto di vista cardiocircolatorio, ma i suoi muscoli non sono abituati e la caratteristica è proprio questa di un dolore bilaterale. Questo è un dolore da fatica, lo possiamo definire, non entro troppo nei dettagli tecnici, dovrei parlare di lavoro eccentrico, ma non c'entra. Si sappia che non si è adattati alla corsa e quindi questo dà un dolore immediato. La persona basta che si metta a camminare, riduce il dolore e poi pian pianino il giorno dopo non ne ha più. Questo è un caso particolare che si associa al crampo. Io vado a correre, mi viene una contrazione involontaria del mio muscolo, vado a giocare a calcio, non sono allenato, fa caldo, cioè ci sono diverse determinanti, questo è il crampo, è una contrazione involontaria, tra l'altro dolorosa del muscolo. Ma anche questa è diciamo una situazione reversibile in tempi brevi. Sì. Diverso è, io vado, non dico solo a correre, ma vado a camminare in montagna e più che la salita mi faccio una discesa per tornare alla mia macchina il giorno dopo cammino male, a 48 ore cammino ancora peggio, nel senso che ho dei dolori forti muscolari, anche qui bilaterali. Questo è quello che si chiama dolore muscolare tardivo, e anche qui stiamo parlando di dolore che è quello più frequente nel sedentario che si approccia all'attività sportiva e che non ha nessuna connessione con l'acido lattico, ma che è legato ad altri fattori, non sto ad elencarli. Lo definisco dolore muscolare tardivo proprio perché si presenta il giorno dopo e due giorni successivi ancora più forte. Che si fa, sì, dottor Tavana? Ecco, che si fa? Se non si allergici, sì, un'aspirina ci può aiutare, sì, e sarebbe molto utile un esercizio moderato che non sia impatto, cioè non va bene ricorrerci o impattare sul terreno, quindi va benissimo il nuoto, sì, dolce o, sì, la bicicletta, anche la bicicletta stazionaria, quella che molti volgarmente chiamano ciclette, però non è corretto chiamare ciclette, ciclette è un nome commerciale, no, di un, certo, prodotto ben preciso. Come si chiama? La bicicletta stazionaria. Bicicletta stazionaria, certo, o cicloergometro. Molto più, però, elegante. Come, no, è che se io devo definire a una persona, devo dire guarda non andare in pullman, vai in automobile, non gli dico non andare in pullman ma vai, che so, in 500, perché ciclette è un nome commerciale ben preciso di un prodotto della Carnelli. E quindi no, certo, no, non c'entra, assolutamente, per chi fa il mio mestiere inorridisce un po', insomma, di fronte a questa definizione del cicloergometro. Poi abbiamo un'altra situazione, però questa è un pochino più seria, sì, del soggetto che durante un esercizio normalmente particolarmente violento, per esempio non gioco mai, non mi alleno mai e vado a giocare scapoli ammogliati. Beh, è un classico. E avverto un dolore acuto a un muscolo, normalmente o il polpaccio o la parte posteriore della coscia, oppure calciando la parte anteriore della coscia. In questo caso io ho proprio la possibilità di aver ottenuto una lesione muscolare. La lesione muscolare chiaramente ti è dà del seria, dolore immediato, certo, è seria. Giocando a tennis, per esempio, è classico, la chiamano tennis leg, proprio una distrazione, cioè uno strappo muscolare al gemello mediale. E in questi casi, dottor Tavana, che cosa si, ecco, fa? Un'indicazione è per gli scapoli e gli ammogliati, è... che giocano a pallone senza allenarsi. Assolutamente. Di fronte a un dolore che chiaramente non è un crampo, che è una contrazione involontaria di tutta una parte della coscia, sì, o della gamba. La prima cosa da fare è mettere la borsa del ghiaccio. La seconda cosa da fare è, dopo 20 minuti di borsa del ghiaccio, cercare di avere una benda a portata di mano e comprimere il muscolo e il giorno successivo farsi visitare. Stop. Perché questa, la lesione muscolare, queste sono le tre mosse sì, fondamentali. Sì, assolutamente. Altre cose. Oppure metti stare la gamba a casa e non andare a giocare a scapoli ammogliati. No, stare con la moglie. Questo medico sport non lo dirà mai. Dirà ti alleni e poi giochi a scapoli ammogliati. Dottor Tavana, grazie per essere stato con noi. Le auguro una buonissima giornata. Arrivederci. Buona giornata anche a voi. Dottor Respizzi, in conclusione, intanto che Tite Togni si prepara per fare tutte le asana che ha descritto nel corso della trasmissione e quindi i nostri ascoltatori potranno andare sulla nostra pagina e misurarsi, vogliamo chiudere con qualche consiglio, due o tre consigli utili per mantenere i muscoli efficienti, tonici, sani? Una cosa che non viene mai consigliata, che invece è l'ideale, è quella di fare degli allenamenti dei muscoli in allungamento. Il nostro muscolo è caratteristico anche per questo motivo. Io posso fare una contrazione del muscolo e contemporaneamente allungarlo. Questo aiuta moltissimo nei muscoli che citava anche Tite prima, cioè quelli dietro, sì, che di solito appunto trascuriamo, perché noi raramente ci concentriamo su questo aspetto del rinforzo in allungamento. In questo modo abbiamo forza, non abbiamo un'ipertrofia eccessiva del muscolo e quindi non abbiamo neanche un aspetto estetico brutto legato alla massa muscolare molto molto molto evidente, sì, e quindi dal punto di vista estetico può anche essere non considerata così favorevole. Un altro aspetto che dobbiamo sempre pensare anche, sì, del muscolo, secondo consiglio, fare molta attività aerobica. che significa? Aerobica, ci vuol dire usare ad esempio la bicicletta stazionaria, sì, che ha appena citato Tavana, piuttosto che una macchina ellittica, piuttosto che andare a nuotare, perché se io ho tanto ossigeno, sì, il muscolo lavora meglio. Grazie dottor Respizzi, allora due consigli preziosi, tra poco i video di Tito e Toni, grazie a voi che siete intervenuti, a Filippa Oreggi in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in redazione, dottor Respizzi, alla prossima, buona giornata a voi. Essere e benessere.